30 minuti in cronaca. Buonasera, ben ritrovati da Laura Bettini. Parliamo di Polonia oggi, perché tutti i cosiddetti big della terra arriveranno domani a Cracovia per partecipare nella cattedrale di Wawel alle esequie del presidente Lech Kaczynski e della moglie Maria, morti sabato scorso, ricorderete, nell'incidente aereo di Smolensk in Russia, dove andavano per commemorare le vittime polacche dell'eccidio sovietico del 1940. Si commemora qui Kaczynski, ma si ricordano anche tutte le vittime di questa strage, sono 96 in tutto. In collegamento con noi da Mosca c'è Vladimir Sapochnikov. Ben ritrovato, Vladimir. Sì, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Tu hai raccontato qui su Radio 24 proprio i primi istanti dopo la tragedia, perché ovviamente come corrispondente da Mosca tu sei stato immediatamente contattato. Si è capito subito la gravità di quello che era accaduto, o si è pensato prima a un incidente aereo grave, sì, ma non che coinvolgesse tutta l'elite della politica polacca? Ma no, praticamente da subito è stato chiaro che si trattasse di un incidente veramente di proporzioni enormi, di una tragedia sia per il popolo polacco che per quello russo, perché successo nella zona dove, ricordiamo, furono fucilati 22.000 ufficiali polacchi dalle polizie segrete di Stalin, e un numero imprecisato, altissimo, di cittadini sovietici battezzati ai tempi di Stalin come nemici del popolo. Praticamente subito sono arrivate le informazioni molto molto chiare, che parlavano di un elevatissimo numero di vittime, e i testimoni dalla zona dell'incidente hanno detto che non ci sarebbero stati superstiti. È stata immediatamente chiara anche la volontà delle autorità russe di collaborare per sgombrare il campo da ogni sospetto, perché nei rapporti tra Russia e Polonia ci sono sempre difficoltà, storicamente ce ne sono state, no? Sì, veramente c'è stata subito una grande apertura da parte dei vertici russi. Il presidente Dmitry Medvedev ha immediatamente costituito una commissione d'inchiesta, ha invitato le autorità polacche a partecipare, ha detto che apriamo a tutti, alla procura polacca, agli esperti, se la Polonia dovesse decidere di condurre un'indagine propria, autonoma, siamo disponibili. Disposti a dare tutte le informazioni indispensabili. Per primi sul luogo della sciagura sono arrivati il ministro per le situazioni di emergenza, rappresentanti delle autorità aeronautiche russe, e dopodiché è stato deciso che anche il primo ministro Vladimir Putin dovrebbe recarsi, insomma, sul luogo della sciagura in compagnia del premier polacco Donald Tusk, con il quale qualche giorno prima aveva partecipato alla prima in assoluto, no? Cerimonia di commemorazione delle vittime di Katyn. Questa è stata già un elemento per il quale il 2010 poteva essere ricordato, no? Una celebrazione congiunta tra i due, poi è accaduto quello che è accaduto. E ricorderemo anche la commozione di Putin nel porgere le condoglianze al popolo polacco insieme al presidente Medvedev. Esatto, tutto il popolo russo lunedì 12 aprile ha osservato una giornata di lutto nazionale, e paradossalmente, non so se in italiano esiste un'espressione come in russo, non c'è male senza bene, qualcosa del genere, praticamente subito molti analisti, molti esperti hanno detto che questa catastrofe terribile, orrenda, potrà favorire la ripresa delle relazioni tra la Russia e la Polonia, un miglioramento dei rapporti tra Mosca e Varsavia che, come ricordiamo, negli ultimi anni sono stati segnati da una serie di polemiche, di dissidi. Era stata proprio la Polonia a bloccare per parecchio tempo la conclusione di un accordo di partenariato strategico tra l'Unione Europea e la Russia. La Polonia ha opposto una fortissima resistenza alla costruzione del gasdotto Nord Stream che dovrebbe collegare la Russia alla Germania. Le autorità russe hanno bloccato per quasi 2 anni l'esportazione di carne polacca verso la Russia, quindi insomma una serie di problemi reciproci, a parte questa polemica sulla memoria storica, sulle scuse che la Russia dovrebbe presentare per le vittime del massacro, della strage di Katyn. Tra l'altro il principale oppositore era proprio Lech Kaczynski, che è deceduto in questo incidente aereo. Quindi vedremo come proseguirà la riconciliazione tra questi due paesi. Io intanto ti ringrazio, Vladimir, per essere stato con noi. Grazie a te e auguro una buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Si è raggiunto adesso in studio Gianluca Di Don Francesco, collega del Sole 24 Ore, ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti. Con te vogliamo approfondire un altro aspetto della questione, un aspetto politico. Abbiamo sentito parlare della riconciliazione, possiamo dire, tra Russia e Polonia, che adesso forse è ancora più possibile. Con le elezioni che ci saranno probabilmente in giugno, le presidenziali, si potrebbe assistere a un riavvicinamento alla Unione Europea, questo ovviamente a seconda di chi sarà il vincitore di queste elezioni. Qua chiediamo il tuo parere. Sì, come è molto probabile, le presidenziali saranno vinte dal candidato del Partito Liberale, attualmente maggioranza in Parlamento. Il Partito Liberale ha un orientamento filoeuropeo, ha un orientamento più positivo nei confronti della Germania. Questo favorirà i rapporti fra Varsavia, Bruxelles e Berlino dovrebbe sciogliere anche le ultime incertezze sull'adesione all'euro da parte della Polonia. Che è un tema di tutto rispetto, perché qui la questione diventa complicata e delicata per i polacchi, che stanno già attraversando una fase economicamente molto sensibile. È una fase molto sensibile. La Polonia si trova in questo momento un po' vittima del suo stesso successo. Nel 2009 la Polonia è stata l'unico paese dell'Unione Europea a riuscire ad evitare la recessione con una crescita dell'1,7%, rallentata rispetto alla media del 6% annuo degli anni precedenti. Ma un successo indubbio: se nella recessione c'è stato un vincitore, questa è stata la Polonia. Questo successo è stato ottenuto anche grazie a una forte svalutazione dello zloty, che ha perso il 40% nel 2009. Cosa succede in questi giorni? Succede che il flusso di investimenti esteri e il programma di privatizzazioni che la Polonia ha in atto sta attirando appunto capitali esteri, e quindi sta facendo apprezzare la moneta. Questo potrebbe svantaggiare le esportazioni. Di conseguenza la Polonia si trova a gestire una fase delicata di governo della moneta per impedire che il calo delle esportazioni danneggi la ripresa in atto, perché la Polonia ha bisogno di crescere del 6-7% l'anno per recuperare il gap. Nell'incidente della settimana scorsa è venuto a mancare il governatore della banca centrale, quindi tutto questo movimento attualmente non ha una guida. Come si pensa di ovviare a questa situazione? Ecco, questa è un passaggio delicato perché la banca centrale ora è retta dal vice, è una banca centrale perfettamente organizzata, quindi sopperisce senza eccessivi problemi al lutto che l'ha colpita. Tuttavia siamo in una fase in cui c'è bisogno di rassicurare i mercati, c'è bisogno di far sentire ai mercati che la banca centrale è nel pieno delle sue funzioni. E allora questo sta creando in effetti qualche imbarazzo al presidente ad interim Komorowski, che da un lato sarebbe tentato di nominare, come sarebbe sua facoltà, immediatamente il nuovo governatore della banca centrale, ma così facendo, ricordiamo che Komorowski fa parte del partito Piattaforma Civica maggioranza di governo, se lui nominasse immediatamente il governatore potrebbe esporsi alla critica di aver voluto affrettare la nomina per mettere un suo tra virgolette, amico, un amico del partito di maggioranza alla guida di un istituto molto importante. Prudenza consiglierebbe di aspettare le elezioni e lasciare il compito al nuovo presidente. Tuttavia, ci sono economisti che ritengono che il vice governatore della banca centrale non possa contemporaneamente guidare la banca centrale e anche presiedere il Consiglio di politica monetaria, che è l'organo che decide delle rivalutazioni o svalutazioni della moneta, che è quello che la Polonia deve fare in questo momento per tenere sotto controllo lo zloty. Ha già cominciato a farlo la settimana scorsa. 30 minuti in cronaca. Siamo sempre in compagnia di Gianluca Di Don Francesco, del Sole 24 Ore, per parlare con lui della Polonia dopo il terribile incidente della settimana scorsa, l'incidente aereo di Smolensk in cui è morto il presidente Kaczynski, sua moglie e altre 94 persone, tutti esponenti della vita pubblica polacca. Gianluca, con te affrontiamo l'ultimo capitolo, quello della politica interna e degli equilibri politici dopo quello che è accaduto. Cosa ragionevolmente ci possiamo aspettare guardando i prossimi giorni? Guardando la situazione nell'ottica delle presidenziali che si terranno fra un paio di mesi, possiamo dire che prima della tragedia il candidato Lech Kaczynski non aveva grosse chance di vittoria. Il suo partito, conservatore euroscettico, Libertà e Giustizia, era attestato nei sondaggi attorno al 20%, quello del premier liberale Tusk al 50%. Subito dopo la tragedia si è pensato a un effetto cordoglio, solidarietà, che avrebbe potuto aiutare il partito Libertà e Giustizia a recuperare. Vediamo però appunto che la società polacca, che in un primo momento si era unita, la Polonia è un paese abbastanza nazionalista e quindi nei momenti di crisi fa tutt'uno, però la decisione di inumare Lech insieme agli eroi della Polonia ha già diviso il paese. Il paese sta già tornando a dividersi ed è quindi ipotizzabile che questo effetto solidarietà non ci sarà. E che quindi si torni sulle posizioni che erano precedenti all'incidente di Smolensk. Grazie Gianluca Di Don Francesco per essere stato con noi oggi a 30 minuti in cronaca. Grazie a voi, buona serata a tutti. Diamo il benvenuto a Marek Lenert, corrispondente della Radio Pubblica Polacca. Buonasera. Buonasera. Marek, con te riprendiamo proprio il discorso che stavamo facendo con Gianluca Di Don Francesco, e cioè la discussione sulla sepoltura di Kaczynski nel castello di Wawel insieme con gli eroi della patria polacchi. Perché fa discutere? Ma è stato detto forse anche giustamente che nel momento in cui si è cominciato a parlare di questo luogo, di castello di Wawel, dove sono sepolti i nostri re, poi i più grandi eroi, con maresciallo Józef Piłsudski in testa, più grandi vati Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, quindi personaggi proprio da prime pagine dei libri di storia. Giusto in quel momento è finito il lutto nazionale, i polacchi potevano essere orgogliosi ed erano ammirati, abbiamo visto anche qui dai media italiani, da questa compattezza, da questo silenzio col quale hanno preso la notizia della morte, della sciagura aerea di Smolensk, la morte del capo dello Stato, di altre 95 persone che andavano insieme a lui alle fosse di Katyn. Quando si è iniziato a parlare di questo luogo, di Wawel, è finito tutto, cioè è finita l'unità nazionale, è finito il silenzio. Poi il problema è o no un eroe nazionale, quindi il presidente? Su questo si sta spaccando l'opinione pubblica? Sì, si dice in parole povere che è troppo, cioè è troppo, è stato un buon uomo, era certamente un buon patriota polacco, uno che amava la patria. Però i suoi modi di procedere, la sua politica, proprio il personaggio stesso erano molto controversi e anche molto criticati anche prima di questo incidente, proprio il fatto che si avesse fatto due cerimonie, perché ricordiamoci che qualche giorno prima, tre giorni prima addirittura, sono andati a Katyn primo ministro polacco Donald Tusk, grande nemico, avversario, diciamo, di Kaczynski, anzi dei fratelli Kaczynski, tutte e due, con Vladimir Putin. Appunto, i russi, se si voleva fare una cosa insieme, e si è potuto farlo per la prima volta nella storia, perché Putin è stato il primo dirigente russo presente alle fosse di Katyn, lo si poteva fare proprio quel giorno, il 7, che era giustamente l'anniversario. Invece il Presidente della Repubblica, che non amava i russi, ha scelto un'altra data, ha detto no, io vado per conto mio. Tu hai nominato giustamente che per la prima volta, hai ricordato che per la prima volta un dirigente, in questo caso il presidente russo Putin, si è presentato a Katyn per commemorare queste vittime, non ha, diciamo, esagerato, non con delle scuse, però ha detto che però è stato ammesso, un grande crimine, ha ammesso che c'era stato questo crimine. Così come il popolo sovietico, i russi, i popoli dell'Unione Sovietica sono stati vittime di Stalin e dei suoi aguzzini, anche i polacchi, in questo caso proprio quelli radunati, 22.000 ufficiali, sottufficiali, cosiddetta intelligenza, elite, sono stati vittime di Stalin, ma non dei russi, per cui non ha chiesto scusa. È un gesto che denota anche un processo di riconciliazione, che secondo te può essere inficiato da quanto accaduto? Cioè, si ritornerà? È avviato, e poi bisogna dire anche, ci sono in questi casi paradossi della storia, della cronaca, paradossi degli eventi umani. Grazie, diciamo, fra virgolette, a questa catastrofe, il mondo adesso sa di più di Katyn, del crimine di Katyn, perché alla fine si sono interessati tutti, ma come mai andava il presidente lì, perché i polacchi ci tengono, eccetera, eccetera. Tutte le TV pubbliche del mondo hanno chiesto il film di Vajda, che abbiamo visto qui non ha avuto grande accoglienza in Italia. E poi un altro paradosso, perché a parte il discorso di Putin a Katyn proprio il giorno 7 di questo mese, dopo si sono comportati splendidamente i russi, ovviamente avendo interesse di allontanare da loro ogni sospetto, perché fa parte un po' della storia dei rapporti tra Russia e Polonia, quella del sospetto. Un polacco sul territorio russo non poteva, durante i secoli passati, sentirsi del tutto sicuro, quindi anche questo fatto che un presidente per di più antirusso, comunque non grande amante del popolo russo, muoia in Russia, poteva far nascere. Invece loro hanno stroncato proprio subito questo pericolo, proprio hanno fornito il massimo, proprio hanno dato che i polacchi sanno apprezzare, e sono le basi per la futura riconciliazione. Marek, ti porto su un altro territorio, perché in questo incidente è morto il presidente, e l'abbiamo detto più volte anche in questi minuti di conversazione, sono morti però anche molti altri funzionari dello Stato polacco. Ci saranno quindi a breve delle elezioni. Che cosa ha davanti la Polonia nei prossimi mesi? Una preparazione alla campagna elettorale difficile, proprio per l'assenza anche di figure carismatiche. Ma è rimasta una, abbiamo accennato, Jarosław Kaczynski, che adesso è un uomo distrutto, perché è rimasto solo, lui non ha moglie, non ha figli, aveva solo questo fratello Lech, che era un po' creatura sua. Lech era molto una persona taciturna, e Jarosław, che è un animale politico. Quando Lech 5 anni fa ha vinto le elezioni presidenziali, si è rivolto proprio all'altro gemello dicendo: presidente, la missione è stata compiuta, quindi è lui, Jarosław, era la mente proprio pensante di questo duetto. Adesso è un uomo distrutto. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Non si sa. Tu, che la vivi dall'estero, questa situazione come la senti personalmente? È molto dura, è molto pesante. Poi, ovviamente, alla radio, io lavoro alla radio come alla RAI qui. Non si parla d'altro, non si può neanche parlare d'altro, visto che c'è il lutto nazionale d'obbligo. Questo pesa perché non è che trovi qui in Italia tutti i giorni qualche cosa da degna di essere riferita ai nostri ascoltatori. Poi appunto ci sono domande: perché così poco in Italia si parla, cosa interessa di più, eccetera eccetera. Ma l'attenzione cala, è ovvio, ma era ovvio. Loro invece sono proprio al 100% presi da questa storia. Grazie a Marek Lenart, corrispondente della Radio Pubblica Polacca. Grazie, a risentirci. È tutto per questa puntata di 30 minuti in cronaca. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Tornerà come di consueto Gigi Donelli. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.